sondaggiali, io ho solo fatto i fori e poi li ho filettati, capito? Vabbè, ma io ti consiglio di metterci le dadi estese, perché anche se c'è 3 mm, sei presente, è troppo leggero come spessore per fare una filettatura, appena stringi il filetto sforza e si rompe. E allora ce li saldo, già ce l'ho la saldatrice, ci saldo in effetti, tanto ormai ci sono i fori, lo saldo lì e buonanotte, così è più robusto. Mettici il minimo passo 6 di bullone, se devi salire troppo anche passo 8, mi scusa passo 6 ho detto una fesseria, passo 8 metti minimo il bullone a 13, testa a 13, almeno sei sicuro che te ne metti due distanziati 10 cm, 8 cm uno dall'altro, non metterlo troppo in cima e lo saldi, gli fai il foro d'ingresso dove entra il dado, la base, diciamo, dove saldare il dado più largo, se mi usi da 8 mettiglielo da 10 il coso, così magari entra dritto e pulito e centrato. Break. E avanti il break. Buonasera e di nuovo auguri anche a te Claudio. Qua c'è salutoni, buonasera Roberto, buonasera Carlo e buonasera Antonio, non so poi chi sia altro, che sia da Rugginito, operatore Claudio QTH di Muros. Buonasera e buon Natale a tutti, riprendi Roberto. Oh, ho l'impressione mia, oggi siete tutti a bomba, tu superi 9+20, Carlo è quasi 9,60, 9,55, Antonio è 9,30 e basta, e oltre, ok cavolo, tutti bombardamento state a me. No, sono normale. Comunque i segnali sono tutti furti, furtici, figurati Carlo quando attacca l'antenna cosa succede, cioè mi dovrò attenuarti, sei già quasi 9,60, 9,55 arriva Carlo, e non ho messo ancora l'antenna dedicata. Ok, vi faccio riprendere a Carlo così per i saluti per Claudio. Avanti Carlo. Natale anche a te Claudio QTH Muros, ben sentito e buona mangiata, perché anche stanotte continueremo a mangiare. Avanti Antonio Natalino, Antonello. Ciao, buonasera. Come va? Anch'io sono 9,80. Guarda Antonio, tu sei un peluzzino più alto di Carlo, però noi siamo forse più vicini, tu c'hai un'antenna più performante, lui c'ha quasi il tuo segnale, lui è un po' più lontano, c'ha un'antenna, figurati, sto dicendo quando mette l'antenna. Ah vabbè, io sono sempre con, in questo momento sono con Saturnet, sono quello momentaneamente, poco fa stavo usando quello di Bondurino, di Manacchino, solo c'è uno spezzone che mi stava rompendo le palle, allora ho dovuto staccarlo, e ce la faccio a bruciare le macchine e gli altri. Adesso quello spezzone non è attivo, gli faccio fare il volo insieme ai PL, che quando in pratica l'ho saldato, tu vai a... E ti gira il provocato da solo, non ha giù compreso, perché? Guarda lì, il piede di fusato, mi... No, è roba buona, quelli in telefono sono una grande cagata, meglio spendere qualche euro in più e almeno sei sicuro. Anch'io quello che avevo montato sull'antenna, sulla bibanda, sulla tribanda, non bibanda, era scadente, l'abbiamo messo uno con Marco, ne abbiamo messo uno, se anzi l'ha messo lui, non l'ho messo io, l'ha saldato, tutto nuovo, connettore N, almeno si fa una volta solo il lavoro. Claudio Di Muros, tu con cosa stai andando invece? Sì, quelle robe che ti prendo io, sto usando le console. Sol 2, 23 canali con microfono SPS Bluetooth da tavolo, quindi con lineare con una valvola praticamente degli anni 70 che tira massima potenza a 30 watt, queste sono le mie condizioni di lavoro, ripeti. Solo 30 watt sta tirando fuori, sei un pochettino più forte del solito. Sì, ma sto usando anche l'accordatore, ero poi capito che ho portato le statiche a zero, di solito quando parlavo con l'altro Alfa Lima non usavo l'accordatore, capito, già faccio tanti rosmetro attaccato alle sezioni e questa volta c'ho anche l'accordatore, cioè, ho capito quello che l'ha ZG, capito, quello il modello 1145 sto usando l'accordatore, capito, hai 30 watt d'antenna e radio sto usando le e console 2, queste sono le mie condizioni di lavoro, riprendi Carlo. Ma stai andando bene Claudio, qua lo stesso mi arrivi fondo scala a me, fondo scala, radio ottima e niente da dire Claudio. Sì, qua c'è il Carlo, sì, contraccambio anche il rapporto di Santiago per te, sì, tu sei Santiago 9230, qui a Muro c'è radio Super 5 a bomba, praticamente stai andando bene anche tu Carlo, capito, sto usando una radio 23 canali, tutta, capito che fa parte della mia collezione privata, che ho tantissimi questi apparati vecchi, però funzionano che bisogna fare due girate a questa radio, che mi ero approfittato anche per farvi gli auguri di buona vigilia, buon anno a tutti, ma buon anno di buona a tutti, scusate, e che mi sono interato un attimo, e capito, è un po' noiose sì, queste feste sono, capito, e infatti non vedo l'ora che si torna alla normalità, perché siamo anche in tre in casa, che con mio fratello che è all'ospedale, che si deve operare per i calcoli, alla fine si bene, quindi siamo in tre praticamente, roba che prima gli ali, li prendi Roberto. Sì, a me dispiace per tuo fratello, dai, speriamo si rimetta a prendere, ma è già in ospedale? Sì, sì, è già una settimana roba in ospedale, infatti siamo soli, capito, lo vogliono operare questa settimana, però ancora c'ha un'infiammazione, capito, perché si deve fare una piega urinaria, capito? Un attimo. Bisogna aspettare che calmi l'infiammazione, poi il chirurgo è in ferie adesso proprio per operare, quindi ogni tanto ce n'è una, capito, a festeggiare, capito, purtroppo non è che abbiamo festeggiato al meglio ieri, capito, ma capito, l'importante è che non manchi niente in casa, capito, perché roba ce n'è per il minimo 3% persone, e non vedo l'ora che si torna alla normalità, dove riprendi Antonio. Ehi AK, buonasera, buonasera a te, Claudio. K, Antonio, buonasera, ben sentito e capito, e buona vigilia anche a te, Antonio, sì, Santiago 9, Radio 5, qui a Muro, sono gli amici, tanto complimenti per la radio, riprendi. KK, no, sto usando l'Intec 550, sto usando adesso. Arrivi bene, Santiago 9, Santiago 9, sto usando l'SPE Console 2, capito, degli anni 70, 23 canali, sito microfono 100X, da capo dell'SPE, 30 a sbatti in questo momento. Arrivi bene, il cambio per Pomponio, riprendi Antonello. Ehi, aspetta un attimo, sto facendo una salatura e un microfono, già riprendo fra poco. Un break, forse qualcuno voleva entrare. Avanti il break! No, io non ho sentito nessuno. Avanti, chi vuole entrare? Bene, ti arrivo! Oh, va! Va, Robè! Cosa hai detto tu? Ho detto se ti arrivo bene! A Puglia, 9.35, sì. Anda bene, dai. 9 a Muro sto arrivando. Ma c'è un bel aiuto comunque tu. Sì, andendi, un po' caretto giusto per farlo scaldare. No, già sta andando bene, anche la radio non è satura, non è sporca. Più piccolino sono io, a Muro arrivo 7 a picchi di 8. Ah vai! Vero è qua. Non di meno, Robè, sei quasi 9.30, 9.25 gli arrivi. Carlo chiude di una sacchetta appena appena più di te. Però avete più che altro lo stesso segnale, però Carlo mi arriva un pochettino più forte. Infatti le faccio anche i complimenti come gli faccio tra l'altra volta, ma capito, arriva molto bene, dovuto secondo me perché ha una buona posizione, oltre che una buona antenna. Riprendi Carlo. Sì, sì, ci arrivo bene da quelle parti, perché qualche giorno fa lo stesso sono stato a Orsi, a Tissi, con la radio in macchina, ero sul canale 25, ho provato a chiamare a casa e mi ha risposto mia figlia, gli ho detto guarda che dopo prova a chiamare, dice, mi ha detto sì, illumini tutto praticamente, e dalla macchina stavo uscendo con 5 watt. Ma quella zona è buona però. Parecchi punti, perché anche Ussi è un ben alto, capito, infatti tipo se uno si dovesse piazzare il baracchino con roba sofisticata Ussi, mi picchia forte a me qua a Muro, se devo parare i colpi, riprendi Antonio? Vabbè, ma io sono dentro città a me, non sono come lui, se ero stato lì in via Lunesole guai. Allora sì che mi avresti sentito un bel forte. Carlo, come volta l'antenna diventa il numero uno, più forte di tutti in assoluto, perché è micidiale, qua arriva una scoppettata ed è con 5 watt e un pezzo di dipolo in verticale, figurati quando metto un'antenna seria, più performante, dedicata per quella frequenza lì. Noi siamo Rami, Roberto, Carlo spaccia il culo a tutti, senza nessun problema, arriva più forte di te Roberto, e alzo lo stesso segnale del mio vicino di casa, che praticamente è Claudio di Muro, che ci arriva 9.40, 9.40 arriva Carlo. Potete attaccare tutto quello che volete, ma Carlo sfascia il culo a tutti, manco uno si salva. Vabbè, noi siamo con Gianfranco Inù. Ok, ciao a tutti, buon Natale, ciao ciao. Beh, a me avvicino tra poco, grappa, buon Natale. Beh, la posizione è migliore della nostra. Io sono con detto Zindai, ma sa valle. Se ho stato in Kibi, uia, si salvi chi può. E io dal tetto dove ho l'antenna installata vedo tutto quanto, vedo muros, ossi, si vede tutto Osilo, tutti quei monti là, capito? E dall'altra parte vedo la Sinara, Porto Torres, capito? Quando è sereno il cielo, insomma, si vede anche meglio. Scusate, mi hai ascoltato un attimo, meno male, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao. Ciao Roberto. Dopo non nessun problema. Claudio, ci sei ancora, Muros? Sì, ci scappa Carlo, sì, ero in ascolto, sì, certo che ci trovo, sì. Saluto anche a Roberto, la sera sta facendo più di diretta per qualche altra frequenza, lui che rientrerà dopo, e saluto anche al Barbiero, se in ascolto, e gli arrivo anche buona vigilia, se mi sta ascoltando. E capito, sì, la posizione vuol dire molto, e infatti sono cercando di andare a qualche agenzia immobiliare e prendermi una casa vicino a quella di Parmiero, almeno sono il più che gli arriva forte, Carlo, ti prendi. Ma anche tu da Muros già arrivi bene, capito? Qua nella mia zona 9 più 30 tranquillamente, capito Claudio? Arrivi ottimamente. Sì, capo, Carlo. Penso io più forte, è vero? Quando, perché viste le condizioni dell'antenna che ho, perché è un'antenna che non si usa molto e io ho l'assilio di un tornado, però che è stata bassa, capito, perché col palo che passo, di stazionaria va bene, dico che sono 2, 2, 3 di rosse, di onde stazionarie, ma vuole tirata su perché non ha molta portata questa antenna e quindi l'eccezione è parecchio sorda, infatti me la voglio cambiare, voglio prendere una di quelle lì che stavate parlando stasera, di queste due spollo, qualche generazioni se la trovo, che quelle non sono di meno, ho visto, e devo valutare la cosa e mettere un po' più lungo, capito? Un palo più lungo, quindi quando la tiro su rimane appena più in alto, perché è praticamente attaccata alle tegole, capito? Quindi devo fare un lavoro ben fatto e viste le condizioni di lavoro che ho, capito, sto arrivando anche troppo bene, ci sto arrivando e per essere in queste condizioni. Ti prendi, Antonio? Sta arrivando, sì, perché Mara è quell'antenna, non è buona, scusa, già va bene, già. Sì, questa è lì, per fare qualche piede, tanto per parlare di lui, la portata c'è, però capito, io voglio aumentare di qualcosina, capito, anche per aumentare un pochino la potenza, capito, infatti voglio mettere il palo più lungo per tirarla appena per su, per avere una cosa fatta bene, capito. Che altro, non sai come rimane questa antenna, ha molto QRL, tipo me lo faccio ascolto sui 40 metri di una notte, per cui si riempie di QRL molto, quando piove tende a riempirsi un po' di onde stazionarie, però si abbassa subito, rispetto all'altra uguale che avevo piazzata, perché l'altra era come si stava rompendo, anche che si caricava di onde stazionarie, quando pioveva, e infatti mi si è troncata in due, quella che l'avevo in vista, ed era precisa questa invece è la più vecchia che papà aveva comprato, quella aveva tolta perché pensava che aveva qualche problema, invece era un problema di capo, ne aveva comprato un'altra uguale, però quella più nuova l'avevo piantata sul tetto e mi si era rotta, che è successo praticamente, io ho dovuto rimettere quella vecchia, adesso questa è figlia unica perché non ne ho altra, se mi si dovesse rompere la cambio con una G-Pol, un'antenna migliore ci metto, che anche quando va 5 usata ce la trovo, adesso devo guardare i costi, i prezzi, quanto mi viene a portare, però il palo lo voglio sollevare, perché mi voglio mettere una cosa fatta bene, perché arrivo abbastanza bene dappertutto e ho collegato mezzo Europa, pensate, le DX su quelle frequenze più alte, arrivo bene a Ossieri, arrivo con le zone lì perché sono molto aperto per quelle zone, infatti di notte facciamo ogni tanto del QSO con questi miei amici, i miei figli, uno anche un mio figlio, per cui di mia madre, capito, se mi diverto così, però la voglio tirare su per aumentare appena il segnale, riprendi Carlo? Cappa dai, io ve lo devo lasciare, ci sentiamo, avanti Carlo! Spiedu, tutta quella zona lì. Sicuramente arriverai anche sino a Bonorva, già per quel versante lì, ci arrivi bene tu, perché da dove sei tu lì è tutto aperto, capito? Tutto aperto, sì, sicuramente cambiando l'antenna già riesci a ottenere qualcosa di più, magari mettendo tipo la J-Pol 7 ottavi, che non hai problemi di portarla molto, molto in alto, capito? Perché va bene anche piazzata a un metro o due metri dal suolo quella lì, e quindi ha poche onde stazionarie, meno disturbi. Io non vedo l'ora di sistemarla bene per eliminare tutti questi problemini, capito? Bianco, per me, là, ci risentiamo che io vado a mangiare, ciao ciao. Io aumenti la portata, io avevo sempre dei problemi quando attaccavo, come su un lineare più grosso, cioè un 2001 della Zetagia a 4 valvole, fino intorno ai 400-500 watt, perché modificato con la valvola pilota si può entrare che con 100 watt ingresso, però ho notato che quando attaccavo quello, ho notato che non ce n'era bisogno di tirare tutta quella potenza, infatti ho messo l'accordatore e ho fatto l'accordo con l'accordatore, ho visto per arrivare bene, tipo come sto arrivando adesso, non c'è più bisogno di attaccare quel lineare, perché è uno degli anni 70 che me l'ha regalato il barbiere, quello che sto usando adesso, che è anche abbastanza carino, me lo uso con le radio di tre canali, con la paillette Comcast, con quello che sto usando adesso, in pratica il vintage, l'ho messo adesso nella radio vintage, lo sto usando adesso, e sto usando 30 watt, visto che non c'è bisogno di metterne 80, 100, visto che usando l'accordatore vado anche bene con questo, perché mi hanno dato i rapporti di Santiago, e visto che va più che bene, riprendi Antonio. Claudio, Antonio prima l'ho sentito, ha chiesto un attimo di Bianco perché mi sa che era pronta la cena per lui e quindi staccava un attimo, al limite riprenderà più tardi, non so se forse non l'hai sentito. Staffa, no, però so che tutti fa uno l'hai praticamente schiacciato, ma non lo so se era lui, hai capito, forse era qualcuno, non so, che magari stava provando a entrare ma non ce l'ha fatta scavalcarti, non lo so, vediamo se vuole venire avanti qualcuno, avanti che vuole entrare su 10. Staffa, riprendi tu Carlo. Vabbè, se Antonio ci sta ascoltando lo salutiamo, ciao Antonio, già ci sentiamo quando vuoi a fare quattro chiacchiere. Sì, Claudio, la cosa migliore è appunto spendere qualche centesimo in più su un buon cavo, capito, l'antenna, e poi su queste frequenze, sugli 11 metri, con la buona antenna, una buona posizione, non c'è bisogno di caricare di potenza, capito, anche con pochi watt riesci a fare i DX, capito, sulle bande laterali. Sì, può essere, sì, confermo, infatti, 30 watt, fai anche 40, la tua equipe, di molto, questo purtroppo 40 non c'è più per lineare, perché un lineare è una valvola, capito, tira soltanto 30 watt, quindi sì, che sto usando adesso, e però ne ho altri due, io uno che tira 200 watt, che ce l'ho nel garage, e un altro, quello che ho detto poco fa, 4 valvole, che sono spinti per le 400-500 watt, che c'è anche la modifica alla valvola pilota, e però l'attacco soltanto quando entro nel canale 45, capito, per farmi ascoltare le tabuliti, a volte nel caso voglio rifare qualche DX, qualche passaggio su quelle frequenze, che è molto difficile a parlarci, perché uno si sopra modula con l'altro, perché hanno questa legge che è più forte, quindi lo uso per entrare lì più che altro, con i baracchini tipo la RAN 48, quella radio lì, c'è un sommer, diciamo, che è un modulatore gigantesco, quando entro lì attacco quello, mi faccio due o tre passaggi, no, per il 10 che mi sento va bene, lo attacco in finta, gli attacco alla radio che si usa adesso, poi c'ho anche le altre, c'è il pubblico di tre canali, con le stazioni valve, un altro sommer, diciamo, i radio in finta sono praticamente pieno, perché Papo è un collezionista molto, un collezionista anch'io, perché sono molto anche appassionato anch'io di queste radio, queste cose, e da qui caso sto optando per comprare una radio più grossa di quelle AKS, di quadripanda, tipo il Facebook 950, una roba simile, pensando di fare un nuovo acquisto, adesso vediamo un po' cosa c'è del tiro e credo che vale la pena acquistarlo, ripeti. Capito, sì, no, beh, è bello collezionare queste cose quando hai la passione, e soprattutto devi avere anche la possibilità, il posto dove tenere tutto, perché perché a volte ci sono pezzi ingombranti, infatti il motivo per cui io non ho tenuto più niente, quello lì, io avevo abbandonato tutto la 27, perché prima quando trasmettevo da un altro QTH, capito, lì avevo lo spazio, avevo proprio una camera per conto mio, avevo un tavolo, scrivania grande dove avevo 3-4 radio, avevo stazione fissa, insomma, avevo di tutto, anch'io avevo l'Alan 48, ce ne avevo uno originale, uno modificato, insomma, avevo, poi ho fatto fuori tutto, capito, e adesso così ho ripreso da poco a modulare, e niente, così quando ce l'hai la passione, ogni tanto ci sono le vecchie rimembranze, e quindi ti vuoi fare un regalino, allora ti compri una radio nuova, un cavo buono, l'antenna e via. Sì, quelle, Carlo, infatti conviene fare così, io sono fortunato perché sono in garage, sono mi abito di fronte alla piazza, abbiamo sul garage, purtroppo per il nostro non paghiamo l'acquisto perché si fa roba nostra, meno male, capita le pendoline nel garage, però ogni tanto me ne guarda uno, ma già abbiamo i ricambi, abbiamo anche dei doppioni di queste radio non funzionanti, dei cattoloni, a volte servono per recuperare qualche pezzo, a volte fa porcine della mia ne fa uno, che è molto bravo a ripararli, anche fatto queste radio, da tutti i ricambi, di qualsiasi apparato, perché ne abbiamo tanti, di quelli di più, sai, invece quelle nuove, almeno da tutto almeno aggiornato, ma quella Moretto lo sa fare, sì, ma non è che è molto bravo a permettere a qualche HS di nuovi, adesso parlano di barattini vintage, come questo che sto usando adesso, e Babbo è molto bravo a ripararli, si arrangia, capito io di meno, purtroppo io parlo e basta, capito mi piace fare gli ex, perché anche divertirmi così come sto facendo ora, capito, sì, più che altro devi avere il posto, capito, a casa di agua pulita, questo non adesso, nella mia stanza non si fa più niente, perché ci sono, capito, questi lineari, l'accordatore, rosmici, un sacco di radio sulla scaffale, anche pronto un'antenna che non mi serve qua per farmi portare in garage, per una radio militare, capito, che devo mettere alla scatola, qua contro l'altra portazione di sempre di radio vita, ci si cambia di mio padre, che c'è un'altra, un altro mobile, che ci sono minimo 14-15 apparati in vita, in senso valvolari, tutti funzionanti, però gli altri ogni tanto lì in garage ci sono quelli funzionanti, però ogni tanto li devo portare a trovarli, capito, perché alcuni si rovinano e da poco me ne sento guardo uno, abbiamo anche preso fuoco, un apparato valvolare, che è con un condensatore, capito, l'abbiamo anche messo a posto, è tornato a funzionare, a riprende, praticamente solo che mi ha funzionato la scrivania come preso fuoco, e quando mi lasci fermi, si mette in mano sempre qualche condensatore, in questa radio c'è sempre qualche lavoretto da fare, poi mi si è rotta una capsula di 2K25 che non avevo sostituire, ma già ne ho bisogno di rotti, quindi ho dovuto fare il cablaggio per metterlo a un altro apparato, capito, perché era cablato per un apparato diverso, l'ho dovuto cablare per quell'apparato, perché quello che era cablato si è rotta la capsula, quindi ogni tanto ce n'è una, Carlo, quindi... Purtroppo è così la radio, però ti passa il tempo così e ti svaghi, dai, è già è piacevole, se è la passione certamente non ti annoiano queste cose, a me sono sempre piaciuti, io lo stesso ogni tanto già mi appento a fare qualche piccola modifica e devo dire che mi aiuto anche con internet, i tutorial eccetera, poi sono sempre riuscito e piano piano con la pazienza, però se le fai vuol dire che ti piace farle, capito? E la cosa migliore è quella. Comunque forse c'era anche Antonello ancora e deve essere in ascolto. Avanti Antonello, se ci sei. Cioè, riprendi Claudio. Sì, può essere, vai, sta facendo roba che sta qua saldando il piede, sta detto così, capito, io papà me mi ha tradato da quando ero piccolo, praticamente la radio a casa si è sempre sentita, da quando sono nato, in pratica perché papà è dagli anni 70 per questo, uno dei primi, insieme a Farviero e agli altri, capita Giulio, che io sono più vecchi e c'è dagli anni 70, modula dagli anni 70, lui fa Capri 2 di nome antico, già di Capri 2 mio padre, e capito, mi ha tradato lui, mi ha fatto appassionare lui a questo mondo della radio, insomma da quando ero piccolo, e mi ha tradato lui, capito, mi ha invitato a giocare in barattini, quindi non funzionanti quando ero piccolo, capito, mi ha fatto ammalare lui di queste cose, da che avesse l'utilizzata dal computer, dal distributore della software, che anche calcolare, cioè praticamente le linee complete di quelle rompite dall'allevatore, cioè le quelle 50 pile, quelle 50 praticamente distributore, tra il distributore separato, capito, con tanto di microfono dell'epoca proprio, capito, calcolare, poi con la Ligaster AT46-146, americano, lo stesso distributore e trasmettitore separato, bellissime da collezione, ho tante radio, capito, è solo che ci vuole la voglia e il posto per metterle tutte, Carlo, capito, e sono da molti anni che sono appassionato di queste cose, quando modulava mio padre, capito, ha smesso, come ho detto, 2-3 anni fa, credo lui, ogni tanto si affaccia per salutare, quando dico, ma ha passato tutto a me, capito, quando era piccolo modulava con un contatto di tutti i vestiti, di cui era la pagliette, il calcolare di tre canali, e capito, quando ero piccolo si aveva il camera da letto, ogni tanto me lo faccio fare rimanere anche a me, quando ero piccolo, e da lì è nata la passione, capito, capito, c'è stato di campi in quelle radio, perché ne abbiamo 4 di più contatto, capito, con tutti i funzionari, bellissimi proprio, sono radio che si aprirono intorno ai 300 euro, molto, molto belle, ripeto. Hai avuto un buon maestro allora, ma tuo padre cos'è, radioamatore adesso? Cappa, no, negativo, vuole prendere la licenza, ma è più interessato a farla prendere a me, perché sono ormai in situazione di ex, in collegamento, sempre in ascolto nella notte, capito, è interessato, sono riuscito a collegare anche lì sulle Canarie, in Marocco, faccio mezzo Europa, dove quasi tutto è rimasto solo la Russia, in terra, purtroppo non ho avuto la fortuna di contattare gli Stati Uniti ancora, essere più vicini in futuro, perché è molto difficile, perché non parlo solo l'inglese, ma poi è difficile come detto, la tutta è ancora più difficile. Ho capito, sì sì, beh anche io ogni tanto qualche Dix già lo faccio, da quando ho ripreso, infatti inizialmente io questa antenna che sto usando ce l'avevo con l'altra polarizzazione, quella orizzontale, capito, e quando ero così ho fatto diversi collegamenti, ho iniziato con le Canarie e poi vabbè quando c'era propagazione ho fatto Sud Italia, la Puglia, la Sicilia, Punta Raisi ho sentito, Piemonte, ho sentito in Italia un bel po' di regioni e poi ho fatto anche, sono riuscito a collegare gli Stati Uniti e l'Indonesia addirittura, questo mi ha risposto dall'Indonesia e lo stesso, anche lui aveva un'antenna con la stessa polarizzazione, perché se tu esci diciamo incontri soprattutto la stessa tipologia di antenna tua, e capito, con le bande laterali vai bene quando c'è anche molta propagazione, capito? Anche a me, io diciamo non è che sono molto portato per l'inglese, però già me la cavicchio, capito, un po' perché lo uso per lavoro, anche ne mastico poco, io mia moglie che è un insegnante di inglese, i miei figli lo parlano correttamente, mio figlio è stato un anno negli Stati Uniti, mia figlia partirà l'anno prossimo in Australia, quindi noi con le lingue stranieri già siamo messi bene e quindi anche io già mi diletto ogni tanto qualche mix e lo faccio, adesso infatti non vedo l'ora di piazzare l'antenna nuova, la prossima settimana se tutto va bene ci riesco e quindi vi romperò anche un po' le scatole a sentire se ho migliorato la situazione, immagino di sì, comunque a te Claudio. Sì, si tappa Carlo, si è beatitudine parlare bene l'inglese, io purtroppo me la cavo solo qualche parola, però a volte faccio fatica a capire di quello che mi sento, ma che voglio una molto molto le parole quelle della pubblicità, come un radioamatore lì, parlano solo inglese, ma mattina e pomeriggio sono naturali per ascoltarli e faccio molto ascolto anche per quello, perché mi riesco a capire sempre qualcosa in sono cose interessanti, insomma. Già è bello, già è bello, e spero con la nuova antenna anch'io di sistemarmi meglio da come sono adesso. Bene Meda, mi ha fatto piacere risentirti, Claudio, rinnovo gli auguri di buon Natale e speriamo di risentirci nei prossimi giorni, anzi sicuramente sì, perché quando c'è la passione non puoi stare lontano per molto tempo e dalla radio ogni tanto accendi e se senti qualcuno fai la chiamata, c'è poco da fare. Io tra un po' devo chiudere perché diciamo che mi stanno reclamando dall'altra parte la famiglia e quindi magari rimarrò in ascolto e se va bene ci siete più tardi sicuramente anche dopo cena già ci sono, già accendo. Eccomi. Ciao Claudio, alle prossimine. C'è stato un brecco e mi sa che era Antonio. Io sto assentandomi per un attimo, poi magari rientro più tardi. Ciao Claudio, ciao Antonio, ciao Antonello e se ci sono altri in ascolto, ciao a tutti, ci sentiamo più tardi nel caso. Ciao Carlo, vi saluto alle prossimine. Ciao Antonio, dai, ci sentiamo più tardi almeno, sarà se possibile, dai, per il nuovo che a te gli auguri di buona vigilia, buon Natale, che ci sentiamo, ok, io adesso mi devo ascoltare, però è per me, ciao a tutti, buona serata a tutti. Ciao, buona serata, ciao. Ciao Antonio, a più tardi se ci sei. Ciao, ci sentiamo. Sì, avanti. Ora. Che? Antonio Bombolo, capo. Oh, buonasera, mascherato. Capo, accanto. Adesso faccio un attimino sul 14, se puoi, che voglio fare una prova. Ok. Antu. Allora. Attenzione, Antonio. Attenzione, Antonio Bombolo. Ora. Attenzione, Antonio Bombolo, scappa. Oh, ma ti sei messo? No, io ti stavo chiamando e tu non mi hai risposto. Oh, strano. Vai sul 14, vai. Forse hai sbagliato la frequenza. Sbagliato sì. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto per gli auguri di Natale, cambio il passo. C'è qualcuno all'ascolto, canale 10, cambio il passo.